Dopo molto tempo, la parola del Signore fu rivolta ad Elia nel terzo anno, in questi termini: «Va e mostrati ad Acab, perché invierò la pioggia sulla faccia della terra». Elia andò a mostrarsi ad Acab, quando a Samaria la carestia era molto grave. Acab chiamò Abdia, sovrintendente del palazzo, che era molto timorato di Dio. Infatti, quando Gezabele sterminò i profeti del Signore, Abdia prese 100 profeti, li nascose a 50-50 nella caverna e li rifornì di pane ed acqua. Acab disse ad Abdia: «Vieni, percorriamo il paese ad ispezionare tutte le sorgenti d'acqua e tutti i torrenti. Forse troveremo dell'erba e potremo conservare in vita cavalli e muli, e non dovremo uccidere il bestiame». Si divisero il paese da percorrere. Acab se ne andò da solo per una strada ed Abdia se ne andò da solo per un'altra. Mentre Abdia era in cammino, ecco che gli venne incontro Elia. Riconosciutolo, si prostrò con la faccia a terra e gli disse: «Sei proprio tu il mio signore, Elia?» Gli rispose: «Sono io. Va a dire al tuo signore: ecco Elia». Quegli replicò: «Che peccato ho commesso, perché tu dia il tuo servo in mano di Acab per farmi morire? Com'è vero che vive il Signore tuo Dio, non c'è nazione e regno dove il mio Signore non abbia mandato a cercarti. Quando dicevano: non è qui, egli faceva giurare il regno e la nazione che non t'avevano trovato. E ora tu mi dici: va a dire al tuo padrone: ecco Elia. Ma quando mi sarò allontanato da te, lo spirito del Signore ti trasporterà non so dove, così che io andrò ad annunciarti ad Acab, e questi, non trovandoti, mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme il Signore fin dalla giovinezza. Non hanno riferito al mio Signore ciò che ho fatto quando Gezabele sterminò i profeti del Signore e nascosi 100 profeti del Signore a 50-50 nella grotta e li rifornii di pane e di acqua? Ed ora tu mi dici: va a dire al tuo Signore: ecco Elia, così egli mi ucciderà». Elia rispose: «Com'è vero che vive il Signore degli eserciti, chi io servo, oggi stesso mi mostrerò a lui». Abdia andò incontro al re e gli riferì la cosa, ed Acab andò incontro ad Elia. Appena Acab vide Elia, gli disse: «Sei tu colui che mette sottosopra Israele?» Ma quegli replicò: «Non sono io che metto sottosopra Israele, bensì tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i precetti del Signore e tu sei andato dietro ai Baal. Ora dunque, chiama a raccolta presso di me sul Monte Carmelo tutto Israele e i 450 profeti di Baal che mangiano alla mensa di Jezabele». Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò i profeti sul Monte Carmelo. Allora Elia s'avvicinò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando voi barcollerete fra due parti? Se il Signore è Dio, andategli dietro; se lo è Baal, andate dietro a lui». Il popolo non gli rispose neppure una parola. Elia riprese a dire al popolo: «Solo io sono rimasto come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Dateci due giovenchi. Essi, se ne scelgano uno, lo facciano a pezzi e lo mettano sulla legna, senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco, lo metterò sulla legna e non vi appiccherò il fuoco. Voi invocherete il nome del vostro Dio ed io invocherò quello del Signore. Il Dio che risponderà con il fuoco, quegli è Dio». L'intero popolo rispose: «Ben detto». Allora Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi un giovenco e agite voi per primi, perché siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio senza però appiccare il fuoco». Essi presero il giovenco, lo prepararono e poi invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, dicendo: «O Baal, rispondici». Non ci fu né voce né risposta. Frattanto essi danzavano, piegando il ginocchio davanti all'altare che avevano costruito. A mezzogiorno Elia incominciò a burlarsi di loro dicendo: «Gridate più forte, perché egli è certamente Dio, però forse è occupato, o ha degli affari, o è in viaggio, o forse dorme e deve essere svegliato». Essi si misero a gridare più forte e a farsi incisioni con spade e lance, secondo la loro usanza, fino a versare sangue. Passato mezzogiorno, continuarono a smaniare fino al tempo di offrire l'oblazione, ma non si ebbe né voce né risposta né segno d'attenzione. Allora Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo gli si avvicinò ed egli ricostruì l'altare del Signore che era stato demolito. Prese 12 pietre in corrispondenza del numero delle tribù dei figli di Giacobbe, cui il Signore aveva detto: «Il tuo nome è Israele». Con le pietre costruì l'altare al nome del Signore e vi scavò intorno un canale che conteneva 2 misure di frumento. Accatastò la legna, fece a pezzi il giovenco e lo pose sopra la legna. Poi ordinò: «Riempite 4 brocche di acqua e versatela sopra l'olocausto e sulla legna». Essi fecero così. Di nuovo ordinò: «Fatelo per la seconda volta». Essi lo fecero. Aggiunse ancora: «Fatelo per la terza volta». Essi lo fecero. L'acqua si sparse intorno all'altare e riempì persino il canale. Giunto il tempo di offrire l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi appaia che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che dietro tuo volere ho compiuto tutte queste cose. Esaudiscimi, o Signore, esaudiscimi e questo popolo saprà che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore, che consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere, e prosciugò l'acqua che era nel canale. A tal vista tutto il popolo si prostrò con la faccia per terra, esclamando: «Il Signore è Dio! Il Signore è Dio!» Elia allora ordinò: «Prendete i profeti di Baal, non ne scampi neppure uno». Elia li fece discendere al torrente Chison, dove li sgozzò. Poi Elia disse ad Acab: «Risali, mangia e bevi, perché si ode già il rumore della pioggia». Mentre Acab risaliva per mangiare e bere, Elia salì sulla cima del Carmelo, si piegò verso terra e pose il volto fra le ginocchia. Poi disse al suo servo: «Orsù, va e guarda in direzione del mare». Quello andò, guardò e disse: «Non c'è nulla». Elia replicò: «Ritornaci 7 volte». Alla 7ª volta quegli riferì: «Ecco, una piccola nuvola, come una mano d'uomo, sale dal mare». Disse allora Elia: «Va a dire ad Acab: attacca i cavalli e discendi affinché non ti colga la pioggia». In un baleno il cielo si oscurò per le nubi e il vento e piovve a dirotto. Acab salì sul carro e si recò a Israel. La mano del Signore fu sopra Elia, che si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Israel.